是我没做没 没有没做我没 哎我马下卡着走 他给我送出去 sei, sei fuggito. Allora, che mi volevano tagliare la billolla. Ah, lei parla la billolla, non ti volevano tagliare. E te ne sei andato da lì, eh? Me lo be. E allora? Cosa? Senza picchiriola rimanevo. Già c'è in plastica adesso, qual è il problema? Te ne mettono una in plastica, motorizzata. Ah, si alza, si scende. Fa tutto da solo, basta che tu dici sollevati e lui piano piano si solleva, poi fa abbassati e piano piano si abbassa. Io allora mi faccio un impianto antenna così, l'alzo e l'abbasso e la faccio girare. Allora, l'alzo e l'abbassi, posso avere il traliccio. Non va bene. Sì, già va bene. No, mi hanno dimesso Antonello, mi hanno già operato e tutto. Meglio così, sono contento. Almeno sei a casa, all'ospedale non è che si sia bene, no? Con la paranoia che invece, se non ti avvenghi un televisore muori di noia lì. Sì, anche se ti porti il televisore con quei dolori che avevo io non ne capivi nulla, non ti devi occupare. Ah beh. Allora io di solito quando stavo più di 20 giorni mi facevo portare il televisore, quello piccolino, ma poi c'è l'altro dei balli che non sei da solo, sei minimo di 7-8 persone, c'è quello che capito che gli dà fastidio e quindi c'è di mettere le cuffie e poi sente l'audio delle cuffie dall'orecchio e quindi una bella noia. Sì, già lo so. Ma televisori di quelli piccolini che prendono tutti i canali che ci sono adesso, a me esistono? Sì che esistono, già ci sono. E me da costano? Ma penso con 120 euro compri di meno, una cosa del genere. Ci sono, su internet ce ne sono tanti, ce ne sono. Basta che sia l'ultimo modello, capito? E te lo prendi un monitor da 6 pollici, 12, già ci sono. Sì, ho capito. Non può fare salute attiva. Bisogna andare a controllare. Indagato per il delitto di pelinato. Bisogna che vada a cosa, da sopra città mercato dove c'è meglio, come fare. Lì già c'erano quei televisori lì piccolini così, l'ultima generazione, capito? Perché 10 giorni non posso uscire da casa, riposo assoluto. Sì, cazzo, e a fare la pupugia ti puoi alzare, cazzo. Cosa? A fare la pupugia ti puoi alzare, ho detto. Sì, cammino e tutto. Non è che c'è il cannolo siciliano come già c'era, lanciato. No, me ne l'hanno stracciato prima, a fratta dura mi va a farmi, e poco fa male. Io lo so. Veramente a già te l'hanno bucato nel fianco, l'hanno bucato lì. Per mettergli il cappettere, capito? E quindi ogni volta che Giampiero deve, ogni mese, ogni fine mese deve chiamare l'urologo, farsi cambiare il cappettere, togliere uno, mettere l'altro. E dentro la carne è viva a me, non è che sia, hai capito? Sì, ho capito. C'è il tubicino che arriva fino alla vescica dentro lui. Mamma mia. Ma è proprio rovinato. Posso mettere i cappettere alla punta davanti, come di solito si fa. Hanno preso e gli hanno fatto il foro 5 cm dalle palle, capito, nel fianco, nell'uretra. E da lì poi gli hanno messo il tubicino e capito. Ogni volta per farlo entrare deve cazzo fare un cane, gli fa male, ma ormai gli è abituato lui. Ma il raffreddore mi è venuto. Lascia perdere che l'ho anch'io, c'è raffreddore, mal di collo, leggero mal di testa, c'è caldo e freddo ma inculato, capito? Sono anche sopra il tetto l'altro giorno perché cazzo l'antenna sarà andata a mi sta segnando stazionarie, la bobina si deve essere mezzo mollata. il giorno che ha fatto tutto col vento, e quindi me l'ha preso in pieno, l'ho preso. Sono con mal di gola e con la freddore, mal di gola leggero, vedi? Come quando prendi, per dire, roba bollente e poi bevi l'acqua, la stessa identica qualcosa. Io capisco. E infatti sono a casa, non sono neanche uscito. Infatti sono uscito tutta mattina a portare il cane, a fare la pipì, ma mi sentivo tutto strano, boh. Come si dice, tipo cosa? La parte del collo, cazzo. Camminando, ma sembravo camminando come uno sbronzo. Sì, mi fa. Ieri in questo lungo cazzo, ma non è entrato più nessuno, quindi verbali e poi firma per un tuo non ho sentito nessuno. Infatti quando è uscito l'abbiamo visto. Sì, vabbè, neanche io ho sentito nessuno. Magari qualcuno già entra ogni tanto, o è nascosto, niente di strano. Sì, già lo so. Lei nega. Ma così la fanno morire la frequenza. Di fronte al magistrato. Sì, cioè, ho visto, vabbè, se è propagazione di un'agenzia ancora di cose. Ho visto che tu si stava ribattendo in TMR a parlare, sul 7, sul coso, da internet l'ho visto, basta andare al canale Telegram, sai l'orario, se ne vado in punta, se ne vanno, sono i ripetitori e parlano da lì e fanno i 80 kg, 80 km, che ne fa 50, capito? Capito. No, finora non ho gente venuta io. Chissà, magari qualcuno dalla posta. Senta, l'ho sentito senz'altro. L'unica cosa che c'è preparazione, quella non manca. L'altro giorno c'era, anzi stamattina c'era preparazione. C'era tutto su 46, su 45 anzi. C'era criminal parlando, eccetera, eccetera. Ascoltare? Sì, ho capito. Cioè, non che vuoi che ti dica? Allora, la preparazione già va bene. Ogni tanto già mi diverto a parlare con tutta Italia. È la tua convenienza, roba che mai in vita mia ci ho parlato. E pure a Roma l'altro giorno e ancora 3-4 giorni prima ho sentito questa ora, facevo ora, cazzo, e un pratico americano e l'hai mai risposto. Poi se ne è parlato lo fumo. Grande così. Cioè, l'ha detto una cosa fantasiosa, come dicevamo prima, cioè, proprio assurda. Che le mie amiche sapessero più due. Ma è inutile scendere su, Giusa, tanto, se la stanno facendo morire così la frequenza. A scendere su lì a comprare un apparato non mi conviene. Invece è tu la più coinvolta. Comprare apparecchi nuovi non conviene, sei matto, mi conviene comprare qualche altra cosa, qualche scooter al limite, anzi quelle macchinette lì, quelle per gli invalidi, 6.400 euro, capito? È la parcheggia dove vuoi. Quelle macchinette? Quelle che vendete in villa, 6.400 euro, se vuole. Quelle scooter per disabili, capito? Che camminano abbastanza, hanno quasi 1000 watt di potenza, camminano bene in città, puoi anche uscire fuori addirittura, puoi andare ai punti, ottava, quelle sono chiuse con i vetri, che sono belle a quattro ruote. Sì, ma non sono state chiarite le cose, ma saranno più fatte bene magari. Almeno non paga si può fare, non è niente, capito? Quando devi andare a fare la spesa, prendi la parcheggi nella via, la visti tu, la parcheggi in un angolo, e parcheggi ce l'hai tutti i giorni, tanto sono piccole e non danno fastidio a nessuno. Sì, rispetto alla relazione extraconiugale, come dicevi tu, smontare la tesi. Non posso camminare, mi manca di stampella. Adesso per la sistema, la stampella già la usi. La cappella sì, si stampella qua. Avete parlato anche di moi. Allora, mi avete pazienza su queste cose qua. questo ci sarà Marcolino Condor che sta ascoltando e ridendo sotto i baffini. Sì, io vedo che non sei uscito a fare spese, l'altra volta l'ho beccato io. Devo dire, l'ho beccato l'altro giorno. È un bel che non lo sentivo, non lo vedevo. Cioè, mi capisci, ascolta adesso. Sì, ma non entra mai. È di burro e di chi signori. Esagerato. Sì, altro che esagerato, Mi se invece mi regalavi quell'alimentatore sbarrato che hai, che me lo mi compravo i pizzi e me lo aggiustavo, Antone, perché c'ho questo cazzo di alimentatore l'osso e non mi piace il bambino. Si pensa stai dicendo quello che mi ha messo a posto Adriano una volta. No, quello non si può più aggiustare, ce l'ho buttato. Perché se bruciato. Sto dicendo che tu c'avevi un alimentatore che era rotto, non ne volevi aggiustare tu, perché ti si rompevano sempre fonte di Dio, di mi sembra, non lo so. Cosa c'aveva? Dimmi se io me lo aggiustavo, mi compravo i pezzi nuovi, gli mettevo i pezzi nuovi, dai. Vediamo, devo decidere un po', dai. Se te lo voglio, te lo porto, si dice, già non c'è problema. Tanto già il tuo sistema adriano, già lo conosce a memoria quello dell'alimentatore, l'aveva riparato lui un paio di volte, capito? Da sei condensatori sono rimasti, mi sembra, solo due, perché intanto si bruciavano, quindi figurati. Devo poi decidere adesso, capito? Sì. Secondo come già tiravo i chimi, tiravo e chiamo Adriano, gli vuole Adriano, te lo metti a posto e te lo utilizzi a casa, c'ha gli strumenti, già lo sai, è l'altra elettronica. C'aveva almeno 20 anni, c'aveva. E va bene, Antonio, là, se riesci a portarlo, perché io intanto per 10 giorni non posso neanche ci da casa. Riposo assoluto, mi hanno detto, cazzo. E beh, cazzo, si hanno parlato lì, secondo te, perché poi andatevi a passeggio, non credo. Senza passare 10 giorni, intanto poi ti tolgono la medicazione, controllano e se è tutto ok, capito? Puoi uscire tranquilla, non è che puoi stare tutti i giorni a casa, se non impazzisci. Io lo so, non ho mia medicazione, non c'ho niente, no, Antone. Devo fare 2 visite solo, una il giorno 4 devo fare un attacco e una il giorno 8 devo andare dall'endocrinologo a fare una visita. Per le indagini preliminari e poi dalla settimana prossima, compatibilmente con i suoi figli, prima della di 4 non vengo subito. Affinché siano completati. Ho capito. Ma tutto giornato, quanto sembra, era giornale l'altro giorno, la Nuova Sardegna. In pratica non fanno più visite fino a, non mi ricordo fino a quando, cazzo. Se vai a Tucco, devi farti Sassari Cagliari, perché Sassari non è operativo come cosa. Fanno solo roba interna e buco. Roba esterna non prendono più niente. Quindi figurati, io dovevo fare la risonanza magnetica al cervello, non posso farla, quindi devo aspettare 655 giorni. Proprio io sono già molto e tutto, se la bobina in cubo, la risonanza magnetica, se me la faccio fare quando sarò male, che allora lì a pronto soccorso me la faccio fare, se no se la pigliano in cubo. La documentazione l'ho già inoltrata lì alla, come si chiama, a Rizzetto, quello che volevano, volevano la vista psichiatrica e in più la parte quella del neurologo, e poi ci allaggiano. Se lo voglio dare, me lo danno, se non lo voglio dare, se lo che se la truccano in culo. Sì, infatti, è un casino. Non sono un casino. Cerco di farlo mangiarti, che devo fare? Se vai a privati paghi e ti fanno tutto quello che vuoi, tanto se devo indietro non te ne tornano, che te poco va sicuro. Io voglio risparmiare 200 euro, non ne ho, e poi ce ne va dare anche qualcosa con la carta, o che lo buttino, a fare una figura merda, lì tu vuoi andare, ma lui va a pagare con la carta, non ce l'hanno per pagare. Una carta lì, poi i privati, per esempio, se devi fare un attacco, non te ne fanno, perché quella te la fanno solo in ospedale, quella col contratto. Ho autorizzato telefonicamente, dallo spedito. Loro non sono autorizzati, evidentemente, e non te ne fanno. Ma l'aggredito era rapinato dai tre stranieri. Gli ho capito. Io questa cosa avevo un'altra magnetica così, lo volevo farla in teoria, riapro la tavola, ma tutto quanto rapito a pagamento sì, ma privatamente nulla, no, non ci sono soldi, hanno ragione, quindi quella, cioè, quindi c'hanno ragione, dice noi, a gratis a casino, se avessimo pagato con un'altra magnetica, tutto quanto. Il televisore. Tu sei nel... almeno non si sente il televisore. Ehi. Il televisore lo si sente, a volte si sovramodulava, figurati tu. Mi sovramodulava il televisore, dimmi tu. Non so. Avete perché un appartamento, almeno con tre stanze tu, non dico di una. Perché se non si è fregato, sì. In una stanza sola non è che puoi stare così. Sì, vabbè, vedremo come fare. Qui ho fatto lo sbaglio madornale, cazzo. Ho messo un'antenna solo e boh, e quindi non posso fare niente. Meglio. Che lo so. In campagna stavi bene, cazzo. Lì c'hai tutte le altre che vuoi, le stanze che vuoi, il problema già lo sai qual è, quindi purtroppo è così. Tu Isanca, cosa vuoi che ti dica? Cazzo, tutto dove me l'ho preso abbandonato, me l'ho presi. La casa che ho trovato, cazzo, mi ci sono infilato dentro. Se tornate a farla guardare, cosa c'è allora, non c'è aveva, se l'avevo già avuto, ho capito che ci sarei entrato con la casa. Poi c'avevo anche lo scemo, proprio capitava di fronte, cazzo, ma già aveva già durato poco, l'avevo spalzato a voi. Meno male che la Megera se ne sta andando. Sì, che se ne sta andando? Dall'amica sta andando qua di fronte. E chi? A 50. Ah, ho capito, ho capito. Avanti, chiede. Chi è che ha fischiato? È sparito. Il signor. Il signore bene dentro, bene fuori. Infatti. Attenzione, Maccolino Condo, a C6. Quella è andata a prendere qualcosuccia, sarà andata a pigliare, come dice lui. A quel giorno quando l'abbiamo visto, qui c'è già pieno fuori, c'era già pieno con la carrozzina e con la badante. Mi sono comprato a piedi, mi sono preso la roba per me, e lui mi ha pigliato la roba per lui, e poi siamo stati tutti assieme. Quindi figurati. Adesso aspetta domani. Domani sarà un casino, sarà cazzo. Perché sono entrato, la caricavano l'altro di sera, come l'ha fatto l'altra volta. Ha fatto giusto in tempo a venerdì. Mi sembra che avevo 5 euro, avevo comprato non mi ricordo che cosa. E tu riesci a provare se funziona con la carta, aiuta mi risponde. Sono da parlare, cazzo, tutto a posto mi ha detto. Aiutare la cosa, la biglia in culo, non torno indietro, se no avrei contato la carta per Simona. Ma poi sono andato a casa, giù qui, come l'hanno caricata adesso? Adesso in punto, cazzo, giù qui, cazzo. non è che pensano che una famiglia ha bisogno, vogliamo andare a farsi una spesa, no? E cosa mi raffutta Eddie? Perché sono già gli incaricati, non devono fare altro che scaricare, capito, direttamente dal computer. E che non hanno voglia, il discorso è quello. Loro pensano al 27, che è San Paganino. Di te non ne le frega niente, di me lo stesso. Sì, grazie per quello che prendo. Cioè, una cosa all'altra mi faccio ogni un mese sì, un mese no, intorno ai 250-300 euro, figurati. Andando al 27 la vuoi. Ma siamo esami anche a me, cosa vuoi ti dica? Forse è troppo presto, le 5 e mezzo sono. Sì, non mi dire che volevi mangiare alle 5 e mezzo. Già Simone mangia alle 7 di sera adesso. E la prendo col buco di mangiare alle 7, a chi può sperare? Io già lo so, anche qua si mangia verso quell'ora, 7, 7 e mezzo. Allora, bella Marcoli, c'è già tre tazzi, ne hai più di meno. Tu mi, la 50 se ne è fuggita, per non sentire a me. Già la giubilata una, ma che mi l'ha fatto va. Vabbè, non mi sfogarti, cazzo, ma lì. Quindi, la prima che hai trovato ti sei distratto. Ma mi sa che distratto ero ubriaco il giorno, Allora, forse, grazie, con tutto quello che c'era, vuoi per io di vicino, mica, lo sai quante come ti sei divertito, facendo impianti d'antenna e impianti di canna. Sì, che volevo piazzare un dipolo, almeno per ascoltare, cazzo, ma come cazzo faccio che io non posso fare più nulla, cazzo? Ma perché chi va via non si può salire sopra, capito? Ti fai installare il dipolo, ripeti due, c'è agile, se ne scende subito, non è quello il problema, no? Se lo costruisce lui il dipolo, magari un dipolo per altro di venderli, costa una cazzata questi dipoli qua, le tue bande. Ma per il dipolo mi manca solo il cavo, di discesa è il cavo per farlo. Il ballo non l'ho già fatto, sembra comprato di quanto è fatto bene. Allora, ci arriviamo, ti compri il cavo, ti compri la prossima settimana e i chili si può salire solo in salvaggio, no? Ci vuole molto. Tanto sarò la tappata, non è che devi salire da parte tuo, quindi sarò la tappata e se lo piazza con un gancio e lo tira una destra e una sinistra. C'è già la carrucola sopra, c'è tutto, ragazzi. Ma cosa vuoi che ti dica? E vabbè, vediamo come risolvere, sempre che mi duri, perché mi ha scoglionato la frequenza, la verità, non c'ho più quella passione che avevo prima, non sto ascoltando più nulla, anche la giuvita antenna azzurri nobili, per qua. E questa per esempio non va bene ascoltare le bande basse perché è sorda, solo qua va bene quella. Ci ha avuto una multibanda, ce l'ha avuto questo di quella penale pezzetto, perché una multibanda verticale avessi sentito tutto. Oggi c'era su Facebook, hanno fatto il test per sui 23 centimetri, ho visto il filmato, e tanto con l'apparecchio loro c'hanno il monitor e si guardano i programmi TV. Sì, ho capito. Andrà bene meda, vabbè dai, ci sentiamo Antone che io comincio, devo fare delle telefonate all'ospedale per avere delle lucidazioni. Al limite se ci sei già entro più tardi. E va bene, ci sentiamo dopo allora. Sandokan.